Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento con i libri di economia. Questa sera parliamo di un libro edito dal gruppo del Sole 24 Ore, Intelligenza emotiva dentro il cambiamento, come trasformare le organizzazioni partendo dalle persone. Quindi un libro di grande attualità in un momento in cui il cambiamento è il motivo di fondo. Si sa che si sta cambiando, ma forse non si sa ancora come. Però già cercare di capire come muoversi per comprendere il cambiamento e attuare le strategie giuste a livello personale, aziendale, sociale e magari anche politico è certamente importante. Allora, intelligenza emotiva dentro il cambiamento. Gli autori sono Joshua Friedman. Good evening, Mr. Friedman. Good evening. E Massimiliano Ghini. Buonasera, dottor Ghini. Buonasera a lei. Joshua Friedman è CEO di Six Second. Ecco, che cos'è Six Second? What is Six Second? We're a global organization. Siamo un'organizzazione mondiale che aiuta le persone ad adottare dei cambiamenti positivi negli affari, in famiglia, nella società, attraverso l'energia delle emozioni. The power of emotions. E Massimiliano Ghini è Managing Director di Six Second Europe. Quindi in Europa cosa sta facendo Six Second? Ma guardi, stiamo cercando di aiutare le aziende ad entrare un po' di più all'interno del tema del cambiamento. Cioè, io credo che ogni persona che vive in azienda veda che il cambiamento ormai è un qualcosa di pervasivo, che tocca a tutti, e ormai è evidente come le aziende che non hanno la fortuna magari di essere in una nicchia di mercato protetta si trovano a gestire almeno un grosso cambiamento all'anno, almeno uno. Quindi il primo problema è quello di individuare il cambiamento. Come si fa a individuare il cambiamento e quale possibilità ci sono per inserirsi in questo cambiamento in maniera originale, magari cercando di anticiparlo? Guardi, vorrei condividere con lei e con i nostri ascoltatori alcuni numeri. Il primo numero è che il 70% dei cambiamenti che le aziende provano a fare falliscono. Questo vuol dire che in un mondo che sta cambiando a una velocità incredibile, credo che sia esperienza di tutti vedere questa velocizzazione del cambiamento attorno a noi, anche se un'azienda individua qual è la strada giusta, rischia di non riuscire ad andarci. E questo è un dramma, perché vuol dire che le nostre aziende rischiano di non essere intenzionali, cioè rischiano di non andare realmente laddove vogliono. Le do altri tre dati rapidissimi. Il primo è: l'83% degli amministratori delegati ritengono che il cambiamento toccherà pesantemente le loro organizzazioni. È la cifra più alta mai vista in questo tipo di ricerche. Il secondo dato è: il 50% dei leader all'interno delle organizzazioni hanno paura di non essere in grado di portare a termine il cambiamento. Il terzo dato è che solo il 9% delle persone che vivono e lavorano all'interno delle organizzazioni crede di essere stata formata ed avere gli strumenti per gestire un momento del genere. E non è che le aziende non investano. Lei pensi che solo negli Stati Uniti si investe una quantità di soldi che è equiparabile al PIL della Nuova Zelanda, solo in formazione. Ma forse stiamo facendo cose che non sono più adeguate ai tempi straordinari che stiamo vivendo. Ecco, ma è possibile avere una teoria del cambiamento, Mr. Friedman? Well, the important thing to begin with. Beh, innanzitutto bisogna chiedersi perché molti cambiamenti non funzionino. Sono tre i principali ostacoli al successo di un cambiamento, che sia esso individuale, di un gruppo o di un'intera organizzazione. Il primo è che quando si pianifica un cambiamento, nella maggior parte delle realtà organizzate, lo si fa in maniera lineare. Prima ci si prepara a iniziare, poi si pianifica il procedimento, poi lo si mette in pratica e, in ultimo, si conclude l'operazione. In realtà, al giorno d'oggi, come ha detto Massimiliano, i cambiamenti avvengono molto velocemente, anche contemporaneamente, in contesti diversi, e si confondono in un sistema caotico e iperveloce qual è il nostro. Ecco perché non possiamo permetterci di sederci e pianificare con calma ogni cambiamento. Dobbiamo invece imparare a cambiare allo stesso passo del sistema. Not ready, aim, fire. Insomma, non pronti, partenza, via, ma piuttosto pronti via, pronti via, pronti via. E questo vale sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista logico. Perché quando le persone modificano le loro conoscenze, il loro modo di apprendere, hanno immediatamente bisogno di nuove idee e di adattare la loro mente alle nuove condizioni. Ed è questo il sistema attraverso il quale il nostro cervello apprende. Nel libro si parla di neuroscienze. Dottor Ghini, in che prospettiva la neuroscienza ha portato qualcosa di nuovo nel management, nella pratica del management? Guardi, finalmente non stiamo più parlando solo di teorie di management, ma stiamo cercando di capire come funzionano le persone in modo che si possa capire come far funzionare le organizzazioni. Perché se non capiamo le persone, difficilmente saremo in grado di capire le organizzazioni. Oggi le neuroscienze ci stanno dando degli spunti ottimi per capire meglio perché una persona, ad esempio, prova certe emozioni, che cosa succede quando prova certe emozioni. In poche parole, finalmente abbiamo capito che l'essere umano non è solo razionale, ha una parte emotiva. Noi per tutta la vita abbiamo sostanzialmente allenato solo l'emisfero razionale del cervello, lasciando perdere totalmente la parte emotiva. In questa prospettiva valgono più i premi o le punizioni? Questa è una bella domanda. Io credo che, come ognuno di noi sa, avendo figli, i premi spingono di più le persone rispetto alle punizioni, ma soprattutto il fatto di trovare il senso nelle cose è la vera chiave. Cioè, il vero problema con i figli e nelle organizzazioni è che in molti casi le persone non stanno vedendo il senso di questi cambiamenti. Quindi premi in denaro non bastano, le persone stanno cercando di capire qual è il vero obiettivo di un'organizzazione, perché devono far tardi alla sera, perché devono dare energia a quell'organizzazione, qual è il senso. Ecco, Mr. Friedman, quali sono le differenze maggiori tra l'approccio americano a questo stile di management e l'approccio italiano oppure europeo? Well, I don't know that there's a European management and an American management. Ma non so se ci sia un metodo manageriale tipicamente americano e uno tipicamente europeo. Ma noto che ci sono sicuramente alcune dinamiche in Europa o in Italia che sono decisamente diverse da quelle in qualunque altra parte del mondo. Noi lavoriamo in Asia, in Sud America, in Africa e possiamo notare che ad un livello base le persone sono tutte uguali e tendenzialmente fanno fatica a mettere in moto i cambiamenti. Questo vale in Italia come negli Stati Uniti, ma dobbiamo ricordarci che noi esseri umani siamo abilissimi ad acquisire nuove idee, perché mutiamo continuamente, per tutta la vita, ma ad un certo punto ci blocchiamo, e questo è un problema universale. Quando ci rendiamo conto di essere bloccati, dunque, ci sentiamo frustrati, contrariati, preoccupati e scoraggiati. Ecco che abbiamo bisogno di una speranza che faccia da catalizzatore per il cambiamento. Lo si può osservare in ogni parte del mondo. Gli esseri umani sono guidati dall'intelletto e dalle emozioni e quando si sentono scoraggiati e bloccati non sono portati a rimettersi in gioco. Ma quando capiscono di potercela fare, allora riprendono a muoversi. Come gioca la leadership in questa prospettiva? È importante la leadership? Quando siamo in una situazione d'impasse e non sappiamo come uscirne, il giusto leader è colui che riesce a guidarci fuori da questa situazione e a condurci verso nuove possibilità. Quando tutto procede nel migliore dei modi, quando un gruppo funziona, non sentiamo il bisogno di avere un leader. Abbiamo bisogno di guide quando piuttosto le cose non funzionano. Un vero leader è colui che riesce a vedere le nuove opportunità e a guidare le persone verso di esse, non solo ad un livello intellettuale, ma anche emotivo, riuscendo a creare una connessione tra le persone e il futuro, motivandole a raggiungere quegli obiettivi e a credere nelle loro capacità. Ecco in che cosa consiste un buon esercizio della leadership. And that's what leadership really is. Ecco, dottor Ghini, questa leadership, come si gioca con il problema della partecipazione, di far partecipare poi tutta la struttura delle aziende, motivarla verso degli obiettivi ben precisi? Indubbiamente il leader è qualcosa che guida, ma è qualcosa che può diventare un ostacolo a volte. Guardi, quello che sta succedendo in questo periodo di crisi è che molti leader, non sapendo qual è la direzione o dove andrà l'azienda o dove potrà andare l'azienda per sopravvivere, si chiudono all'interno delle loro stanze perché non sanno che cosa dire, stanno vivendo momenti di incertezza, di paura e quindi tendono a nascondersi. E nella realtà è proprio in questo momento che il leader può fare la differenza, come diceva prima Friedman, e soprattutto il leader in questo momento deve guardare alle proprie emozioni, nel senso che le emozioni sono contagiose. Un leader che ci crede è in grado di contagiare gli altri. Un leader ansioso, nervoso, depresso rischia di passare queste emozioni agli altri. Sono contagiose le emozioni positive, piacevoli, ma anche quelle spiacevoli. Allora questo è il momento per il leader di uscire dalla loro stanza, metterci la faccia, lavorare sulle proprie emozioni, perché il primo modo per motivare gli altri è far vedere la propria motivazione. Non credo che un leader demotivato possa motivare i collaboratori. È importante ricordare che le emozioni sono reali, sono energia e influenzano gli altri. Per un leader il suo stato emotivo non è un aspetto astratto o da trascurare, è un nodo fondamentale e questa consapevolezza delle proprie emozioni conferisce potere e un buon leader sfrutta questo potere di influenza sugli altri. Ecco, nel libro c'è una change map. What is a change map? When we look at change in a traditional sense, it's a... Se non consideriamo il cambiamento come viene di solito considerato, cioè un processo lineare, allora lo osserviamo attraverso una change map, cioè una mappa sulla quale creiamo un cambiamento circolare. In questo ciclo si inseriscono le emozioni che possono bloccare e le emozioni che possono motivare il cambiamento stesso. Sulla mappa abbiamo disegnato le varie fasi del modello che si susseguono in circolo per innestare un processo che permetta un cambiamento sempre più veloce ed efficace. Ecco, dottor Ghini, per concludere, un motivo per comprare, ma soprattutto per leggere questo libro? Ma guardi, io credo che chi è stanco di teorie manageriali basate su idee ma non sulle neuroscienze può trovare in questo libro un modello che aiuta a mettere le persone realmente al centro dell'organizzazione, che si basa sulle neuroscienze senza avere la pretesa di insegnare le neuroscienze, quindi senza come dire, un approfondimento che possa essere noioso per chi lo legge. Quindi se avete voglia di capire come le persone possono cambiare in una maniera scientifica e portato a livello organizzativo, beh, questa è un'occasione. Anche rimettendo in fondo al centro dell'azienda la persona con tutte le sue potenzialità, è un modo anche per, non dico sfruttare tra virgolette appunto le potenzialità delle persone. Guardi, ogni azienda dice le persone sono il mio asset principale. Tra quello che si dice e quello che si fa, io noto una certa differenza. Credo che sia forse il momento, sia arrivato il momento di chiudere un po' questo ponte tra quello che diciamo e quello che facciamo in modo da renderlo reale. Grazie, speriamo che questa prospettiva possa anche aiutare le aziende a superare questo momento certamente non facile, certamente di cambiamento, appunto interpretare il cambiamento, viverlo come opportunità positiva è qualcosa di decisivo appunto per affrontare il futuro. Io ringrazio Joshua Friedman e Massimiliano Ghini, gli autori di Intelligenza emotiva dentro il cambiamento, un libro edito dal Sole 24 Ore, un libro che costa 20 euro, è un investimento con 230 pagine. Ringrazio anche Carmelo Loricella in regia e Anita Panizza in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana.